hai degli sbatti e non sono le ore piccole. E tuo padre ti prende a schiaffi e sei sotto con le pillole. Ora chiama un altro taxi. Dopo tutti questi anni, questi drammi, questi grammi, questi danni, che cos'ho io da insegnarti? Contro l'amore siamo vaccinati. Io non voglio la fama per poi essere odiato. Il successo raramente viene perdonato. Mentre fai finta di tutto pure che godi, sì. L'asfalto è vivo e mi inghiotte come le sabbie mobili. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici. A te vogliono soltanto togliere i vestiti. A me hanno tolto un po' di tutto. Ultimamente sono stato di più in farmacia che in studio. E vedo un teschio se mi guardo allo specchio. Là fuori i cattivi stanno vincendo e tu ci vai a letto. Ma dalla merda non ci esci, profumata Chanel. Io stesso adesso penso solamente al sesso e al cash, tesoro. Volevo cambiare il mondo ma mi han cambiato loro. Volevo essere qualcuno ma ora non ho nessuno. E io non so se alla fine Dio avrà pietà. Cammino in strada e c'è il sangue che esce dai bancomat. E sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa? Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro e faccio un altro giro all'ultimo respiro. Sei persa. E sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa? Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro e faccio un altro giro all'ultimo respiro. Baby, so che non ti piaci e stavi chiusa nella camera. Però adesso piaci agli altri e ora devono pagartela. So che ti odi quando piangi. Dopo tutti questi anni, questi drammi, questi grammi, questi danni, che cos'ho io da insegnarti? Contro l'amore siamo vaccinati. Quando ho iniziato avevo gli occhi della fame, sì. Talento ed ambizione, zio, questi hanno solo gli occhi da infame. Il castolano d'oro, scortato dentro al locale. Prendo tre pastiglie al giorno e non parlo delle case. È regolare dire che se stai di merda io sto uguale. Che sudo mentre guardo il soffitto e dormo male. Sono come i tuoi fantasmi che mi tengono sveglio. Ho scoperto che i vivi non sono niente di meglio. Con quella bocca potresti dire ciò che vuoi salvarti. Non usarla per ingoiare con piacere gli altri. Bastardi, ti stringono le mani. Ma il diavolo ti accarezza solo quando vuole l'anima. Il cuore non importa più, cerca di indurirlo. E mentre parli l'innocenza se ne va sui tacchi a spillo. E sei già peggio di me, fuori, brutto, dentro, brutto. Fatti gli occhi della fame, alza lo sguardo e prendi tutto. Sei persa. E sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa? Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro e faccio un altro giro all'ultimo respiro. Sei persa. E sono perso anch'io, com'è che faccio a dartela una vita diversa? Vorrei rubare i sogni a chi è felice e metterteli dentro la testa. Dicono che anche se ti sbatti da sta vita poi non esci vivo. Dicono che uno come me è solo autodistruttivo. Ma faccio un altro giro e faccio un altro giro all'ultimo respiro. Sei persa.